davanti e le persone che non sono abituate, quelli del primo anno che ancora non si conoscono da questo punto di vista, non sanno che i romanzi li leggo, li commento nelle, in certe parti, naturalmente, in certi passi, minutamente, adesso bisogna vedere secondo i tempi che naturalmente si sono concessi, e il resto naturalmente dovete leggerlo per conto vostro, tutto saperlo parcheggio nei dettagli. Prima di cominciare però volevo ancora dirvi una cosa, su, anzi due cose. La prima riguarda il, se questo fa così vuol dire che qualcuno il telefonino ce l'ha acceso. Non l'avete acceso, guardate un po', lei ha un'aria strana. Aspetto. Uno su un, vi ricordate abbiamo parlato del titolo, l'educazione sentimentale, che è l'educazione dei sentimenti, ed è l'educazione che avviene in modo sentimentale. Allora volevo aggiungere questo, che in realtà si tratta di un problema, come dire, universale, perché l'educazione non può che avvenire, un problema di tutti, non solo un problema di Frédéric Moreau, il protagonista, non può che avvenire poggiando sui sentimenti, ed è proprio questo fatto che poi rende l'individuo così ricattabile, in quanto è preso, no? Pensate, dai genitori, dall'ambiente, dagli amici, dagli amanti, eccetera, è preso, è afferrato attraverso i sentimenti. Questa è una prima cosa da dire. Non è comunque una crisi, vi dicevo, soltanto del personaggio protagonista, di Frédéric Moreau, ma è una crisi di una generazione. È una generazione che è quella di Flaubert, naturalmente, che è sotto accusa. E qual è l'accusa? L'accusa è quella di non aver saputo volere sufficientemente. Cioè l'accusa è una sorta di abulia dello spirito, di abulia vuol dire mancanza di volontà, e l'accusa è quella di essere stati inattivi, di aver lasciato disperdere la propria vita. E il senso più profondo della storia che stiamo per leggere, della bellissima storia fatta, come lui diceva, sul nulla, che stiamo per leggere, è proprio questa. C'è un uomo che ama una donna e questa donna non può corrispondere a lui, ma in realtà non può corrispondere perché è sposata, ma badate che non, lei è scontentissima del marito, quindi lui poco poco che insistesse probabilmente avrebbe delle chance di penetrare nell'ambito spirituale, psicologico di questa donna. Però non lo fa. Perché non lo fa? E questa è la domanda a cui non c'è una risposta. Perché quando alla fine della Indimenticabile, una delle più grandi pagine della letteratura di ogni luogo, insomma, perché alla fine, quando lui può incontrare questa donna, non la incontra? Perché lei è vecchia? Qui è un... Lei certamente non è una donna giovane. Neanche lui però è un uomo giovane. Neanche lui è un uomo giovane. E per due persone che si siano amate per tanto tempo, cioè lei mi pare che abbia sui 56 anni e lui sui 45, allora i 56 di oggi, una donna 56 anni, se ben tenuta, fa famiglia, oggi. Allora no, naturalmente. Dovete sapere una cosa, che la durata della vita naturalmente è cambiata moltissimo, insomma, no? Nell'Ottocento la durata media della vita era sui 23-25 anni, pensate all'inizio dell'Ottocento. Sì, e insomma, e poi è cambiata vertiginosamente, perché era nel 1911, leggevo, quello un secolo fa, quindi era di 43 anni. Qui naturalmente in Italia. Ma quindi è l'età, questo potrebbe essere l'indizio che però ci porta fuori strada, è l'età quello che si dice non ti voglio più, ma non, in realtà i due si amano, insomma. Poi, lui in realtà non, è uno che non vuol fare, non vuol concludere. Ed è un po' questa la caratteristica di noi moderni, che abbiamo questa difficoltà a concludere. Un grande libro, brutto romanzo, ma grandissimo libro, del XX secolo, è L'uomo senza qualità. Lo conosce? Chico di questo titolo lo conosce? L'uomo senza qualità di Musil, di Robert Musil, scrittore austriaco, racconta la storia di uno che non conclude, che non riesce a fare le cose che fa. E io so bene che voi ragazzi potete abbastanza identificarvi in cose di questo genere qua, perché è uno dei problemi che la gioventù ha, di non riuscire a concludere, di non riuscire a volere sufficientemente. Mi richiamo ancora sul fatto della parola moderno, vi ricordate, vi dicevo, da modo, orora. Noi siamo nell'orora. In fondo, se ci pensate, la civiltà della televisione in cui viviamo è la civiltà dell'orora, del moderno, no? Tutto viene immediatamente bruciato. E viene immediatamente bruciato. E quindi, come si fa nella civiltà del moderno ad avere una fede nell'assoluto? Noi abbiamo semplicemente nel transitorio, come diceva Baudelaire l'altra volta, vi dicevo, nel fuggitivo, nel contingente. Questa è la ragione, questo è un discorso che mi sta a cuore, che naturalmente bisognerebbe fare in sede adeguata e che non sono tenuto io a fare, per cui sono in profonda antitesi con la posizione della Chiesa e del Papa, che si oppone al relativismo, vedendo nel relativismo il male del mondo moderno. Ma non si può opporsi, a mio modo di vedere, al relativismo, perché il relativismo è la realtà dei nostri tempi. Sarebbe come se questo opporsi da parte delle più alte gerarchie ecclesiastiche, anche di luoghi di pensiero così alti come quelli che si possono trovare nella Chiesa, opporsi a quella che è quello che è il colore profondo dei tempi, è sforzo vano. Gli uomini si distaccano, gli uomini si allontanano, uomini che dovrebbero andare verso una spiritualità sono distaccati da questo distacco delle gerarchie ecclesiastiche nella fattispecie. Noi siamo nel relativismo, non possiamo immaginarci diversi da quello che siamo. Questo discorso mi piacerebbe fare anche tenendo conto che, per esempio, il mondo orientale è completamente diverso da noi. Apro e chiudo la parentesi. Insomma, molti che sono attratti dal mondo orientale, studi, eccetera, sono cose bellissime, naturalmente, cose splendide. Ma non sono, è stato detto, cose che sono applicabili a noi facilmente se non nello spirito della moda, se non nello spirito anche della futilità, con il buddismo, con sostanzialmente il buddismo, con tutte le religioni orientali. Con un senso della vita che non si è imperniata sull'ascesa verso l'assoluto, verso il sublime. Noi occidentali non abbiamo a che fare. Noi siamo figli del sublime, dell'assoluto. Siamo figli di Goethe, ecco, per intenderci. Noi siamo, questo è il nome forse a cui fare più riferimento, noi siamo figli di Goethe. Quindi non possiamo avere a che fare con cose di altro genere, cose, culture diverse. Quindi che noi siamo figli in qualche modo di Frédéric Moreau, che non ha avuto figli. Frédéric Moreau, quando inizia questo romanzo, è un ragazzo. Tenendo conto che voi siete più giovani della vostra età, come sapete, un vecchio discorso, voi avete 7-8 anni di meno di quanto si fosse qualche anno fa, perché la vita si è spostata. Un trentenne di oggi è un bambino, sostanzialmente. E quindi c'è qualcosa in comune tra Frédéric Moreau, che non ha la vostra età, ha 18 anni, ha finito la maturità, dall'altra parte voi siete del primo anno, ha finito la maturità ed è stato mandato a Le Havre per vedere con un parente se ci sono delle possibilità di avere la sua eredità, va bene? E adesso torna a casa. Quindi è a Parigi, è andato a Le Havre, torna una casa sulla Seine, Nogent-sur-Seine, è il suo paese, no? E poi comincerà l'università. Cioè è nelle condizioni in cui vi trovate. Voi quando avete fatto finito gli studi superiori, tornate magari al vostro paese, mettiamo che siate a Roma, tornate, no? E poi dovete, vi accingete a ritornare a Roma per entrare all'università. La situazione è molto semplice. Quello che stiamo per leggere ha una perfezione segreta, sottile, che cercherò di illustrarvi, perché l'incipit dell'educazione sentimentale è probabilmente la cosa più bella che mai sia stata scritta. Ma come vedete, come vedrete, non c'è nulla di clamoroso in questo incipit. Più riuscirete a capire queste bellezze segrete, più si eleverà la vostra capacità di intendere la letteratura. Quindi a questo punto prendete questo incipit, e seguendo naturalmente il nostro solito sistema, e cominciamo a tradurre. Ve lo traduco lentamente, direttamente dal francese. La traduzione di Flaubert, ancora, vedete quanti permessi sono costretto a fare. La traduzione di Flaubert, tutte le traduzioni sono difficili. La traduzione di Flaubert è particolarmente difficile perché la sua prosa si affida a un ritmo. Questo ritmo non è riproducibile in italiano. Capite? Ecco. Quindi la vera difficoltà non è quella di tradurre il lessico. Il lessico è uno sulla casa. È il problema proprio del ritmo che si perde. Io faccio riferimento per esempio a una traduzione di Einaudi di Lalla Romano, che era una scrittrice, e c'è una differenza sensibile, netta, ma altre traduzioni sono ugualmente insoddisfacenti. Credo, vi dico anche, che ho saputo che il professore di lingua francese, mi pare, voglia fare, si accinga a fare, eccetera, nel suo corso una considerare la traduzione dell'educazione sentimentale. Quindi informatevi, perché potrebbe anche esservi utile. Il 15 settembre 1840, verso le 6 del mattino, la Lille de Montereau, pronta a partire, fumava a grosse volute davanti al Chiesa Bernard. Gente arrivava trafelata, brivi, gomene, cestini di biancheria ingombravano la circolazione. I marinai non rispondevano a nessuno, ci si urtava. I bagagli salivano fra i due tamburi e il rumore si assorbiva nel rumore più generale del vapore che, sfuggendo dalle lamiere, avviluppava tutto di una nuvola biancastra, mentre la campana, a prua, suonava senza tregua. Finalmente il battello partì. E le due rive, popolate di magazzini, di cantieri, di officine, filarono via come due larghi nastri che si srotolano. Un giovanotto di 18 anni, dai capelli lunghi e che teneva un album sotto il braccio, restava vicino al timone, immobile. Attraverso la nebbia contemplava campanili e edifici, di cui non sapeva i nomi. Poi abbracciò con un ultimo colpo d'occhio l'Île Saint-Louis, la Cité Notre-Dame, e presto, mentre Parigi scompariva, emise un gran sospiro. Il signor Frédéric Moreau, che da poco aveva avuto il baccalaureato, se ne tornava a Nogent-sur-Seine, dove doveva languire per 2 mesi prima di cominciare i suoi studi di legge. La madre, come somma indispensabile, l'aveva mandato alle Afra a incontrare uno zio da cui sperava per lui l'eredità. Ne era tornato il giorno prima soltanto. E si ricompensava del fatto di non aver potuto soggiornare nella capitale, tornando nella provincia, a attraverso in provincia, attraverso la strada, facendo la strada più lunga. Il rumore diminuiva. Tutti avevano preso posto, alcuni in piedi si riscaldavano intorno alla ciminiera, alla macchina, alla caldaia, alla macchina, e la ciminiera sputava con un ranto lento e ritmico il suo pennacchio di fumo nero. Goccioline di rugiada colavano sui rami. Il ponte tremava sotto una piccola vibrazione interiore e le due ruote, girando rapidamente, battevano l'acqua. Il fiume era costeggiato da greti di sabbia. Si incontravano zattere di legname che si mettevano a ondulare sotto il movimento delle onde, oppure, in un battello senza vele, un uomo seduto pescava. Poi le nebbie erranti si sciolsero, il sole apparve. La collina che seguiva a destra il corso della Senna poco a poco si abbassò e ne sorse un'altra più vicina sulla riva opposta. Degli alberi la coronavano fra case basse coperte di tetti all'italiano. Queste case avevano giardini in declivio che dividevano muri nuovi, cancelli di ferro, prati, serre calde, vasi di geranio, spaziati, messi a distanza regolarmente su terrazze dove ci si poteva affacciare. Più di uno, scorgendo quelle graziose residenze così tranquille, avrebbe voluto essere lui il proprietario per vivere lì fino alla fine dei suoi giorni, con un buon biliardo, una barca, una donna o qualche altro sogno. Il piacere del tutto nuovo d'una gita sull'acqua facilitava le confidenze. Già i burloni cominciavano i loro scherzi, molti cantavano, si era allegri, ci si versava dei bicchierini. Frederick pensava alla camera che avrebbe occupato laggiù, al soggetto di un dramma, a degli argomenti per dei quadri, a delle passioni future. Trovava che la felicità meritata dall'eccellenza della sua anima tardava a venire. Declamò a se stesso versi melanconici. Camminava sul ponte a passi rapidi. Si avanzò fino all'estremità, vicino alla campana, e, in un cerchio di passeggeri e di marinai, vide un signore che raccontava delle cose galanti a una contadina, e mentre faceva questo le smanacciava la croce d'oro che portava sul petto. Era un pezzo d'uomo di una quarantina d'anni, dai capelli crespi. Il corpo robusto riempito una giacchetta di velluto nero, due smeraldi brillavano alla sua camicia di batista, e i suoi larghi pantaloni bianchi cadevano su strani stivali rossi in cuoio di ossa di Russia, che avevano dei disegni blu sopra. La presenza di Frederick non lo disturbò. Si volse verso di lui parecchie volte, interpellandolo con delle occhiate. Poi offrì sigari a tutti quelli che lo circondavano. Ma, seccato di quella compagnia, senza dubbio, andò a mettersi più lontano. Frederick lo seguì. La conversazione toccò subito differenti specie di tabacco. E poi, del tutto naturalmente, andò a finire sulle donne. Il signore, in stivali rossi, diede dei consigli al giovane, esponeva delle teorie, narrava degli aneddoti, citava se stesso come esempio e parlava sempre con aria paterna e un'ingenuità di corruzione divertente. Era repubblicano. Aveva viaggiato, conosceva dall'interno teatri, ristoranti, giornali e tutti gli artisti celebri che chiamava familiarmente col nome proprio. Frederick gli parlò ben presto dei suoi progetti e lui li incoraggiò. Ma si interruppe per osservare il tubo della ciminiera, poi borbottò presto un lungo calcolo al fine di sapere quanti colpi di scantuffo a tante volte al minuto doveva, eccetera. e trovata la somma, ammirò molto il paesaggio. Si diceva felice di essere fuori dagli affari in quel momento. Frederick provava un certo rispetto per lui e, non resistette alla voglia di sapere il suo nome, lo sconosciuto rispose tutto d'un fiato: Jacques Arnaud, proprietario dell'area industrielle, boulevard Montmartre. Un domestico che aveva un gallone d'oro sul berretto venne a dirgli: se il signore volesse scendere, la signorina piange. Allora, dopo aver letto questa cosa, naturalmente dovete incendiare le librerie. E adesso vi spiego perché è così bello. In fondo poi queste categorie crociate del bello e del brutto che noi abbiamo dimenticato sotto le orge trionfanti di sociologia marxistica e strutturalismo negli ultimi 50 anni del XX secolo, poi in fondo queste categorie, pur con la loro zezza, ciò che è bello e ciò che è brutto, vi sapete, è uno dei pensieri fondamentali di Croce, per cui c'è, secondo Croce, nella commedia ci sono delle cose belle e ci sono delle cose brutte. E poi si gridò allo scandalo dicendo che tutto Dante era bello, bisognava leggerlo in un certo modo, ma io in fondo al bello e al brutto, sia pure naturalmente con una sottigliezza molto superiore, Croce per esempio non capiva nulla del Benedettino, non capiva nulla di varie cose, non capiva nulla di musica, però era un genio per altre cose. Qui quello che vorrei invitarvi a vedere è l'essenzialità del racconto, che viene fatto con l'aiuto di una macchina da presa, di una ideale macchina da presa. C'è anzitutto il tempo. E direi che la stessa determinazione del tempo e dello spazio in se stessa è bella. Il tutto avviene il 15 settembre 1840. Settembre, autunno. Autunno, ma l'autunno, come ben sapete per i giovani, è che vanno a scuola, all'università, è il tempo in cui si cominciano le lezioni. Siamo in autunno del 40, in Francia siamo, vi comunico che siamo in Francia. C'è una monarchia borghese. Re è Luigi Filippo. Borghese vuol dire questo, che il re conta poco, contano i borghesi. E il fatto che i borghesi contano, come già ho avuto modo di dirvi, vuol dire che conta la produzione. Contano i soldi, no? Il reddito, conta quello che tu riesci a fare. Ecco, e voi capite che allora chi è giovane è un po' travolto da questa necessità di produrre. Lui vorrebbe sì fare, ma altre cose diverse dalla produzione meramente economica. 15 settembre 1840, Parigi una mattina. Una mattina di un giorno feriale e c'è una nave, un battello pieno di gente che parte e va sulla Senna. E questo battello va sulla Senna da Parigi fa tutta una linea che non so quale fosse esattamente, ma arriva al paese in prossimità del paese di Frédéric Bourreau, che è appunto Nogent-sur-Seine. Sei del mattino, bello questo orario, bellissimo, perché le 6 del mattino non sono mica le 7 del pomeriggio, no? O le 3 del pomeriggio, le 6 del mattino è l'inizio della giornata, è l'alba. E alle 6 del mattino voi dormite, anch'io. Anzi, io sono un nottambulo, quindi. Ma alle 6 la gente comincia il lavoro. Se voi uscite qui a Roma alle 6 del mattino, vedete che ci sono un sacco di macchine che cominciano a muoversi. E quindi qui alle 6 del mattino c'è la gente che va al battello e si affretta per partire. Ci sono gomene sono le grandi corde che si usano nelle navi. E i marinai, sentite questa bellezza, i marinai non rispondono a nessuno. Perché i marinai non rispondono a nessuno? Rapidamente, me lo dice lei. Facile. Perché? No, non perché i marinai non rispondono? Perché stanno lavorando, no? Quindi questo fatto che i marinai non rispondono a nessuno ti dà, vedi, l'idea del lavoro che perde. Il lavoro che perde, quindi è chiaro che non posso rispondere. Non posso rispondere. I bagagli vanno. Dovete immaginarvi una situazione di questo genere, l'avete vista molte volte, a un aeroporto, no? Quando l'aereo sta per partire, oppure appunto a un volo qualunque, andate a Civitavecchia, andate. E poi la nave parte. La nave parte. Io a questo punto vi parlavo giusto appunto della macchina da presa, è come se la macchina da presa si spostasse e vedesse tutto e registrasse tutto quello che si vede da una parte e dall'altra della sera. Cosa si vede? Si vede un paesaggio particolarmente grazioso? No! Si vede un paesaggio dove ci sono lavori, dove si lavora, dove c'è vita che ferme, ci sono magazzini, i magazzini sono dei grossi stabili, no? In cui si lascia la roba, si deposita la roba, cantieri, officine che filano via come due nastri che si srotolano. È abbastanza semplice. È semplice e splendidamente pregnante, perché se tu vai con il battello, evidentemente è come se fossero due nastri che si stanno srotolando ai tuoi fianchi, come due nastri che si srotolano. Ecco, dovete sapere questo, annotatevi, lei non prende appunti là in fondo? No, è un ascoltatore. Dunque, dovete sapere questo, che Flaubert usa le comparazioni, come vi ho accennato, e usa poche metafore. Perché usa le comparazioni? Perché le comparazioni fanno parte della realtà, mentre le metafore fanno parte del soggetto. Tornando ai discorsi che facevamo, che abbiamo fatto con qualcuno di voi, pare nel terzo anno, se io dico che Achille è come un fulmine, io mi limito a registrare il fatto che tra due fenomeni terrestri, il fenomeno Achille e il fenomeno fulmine, c'è una similianza. Ma se io dico Achille è un fulmine, c'è il soggetto di mezzo che ha creato questo contatto fra Achille e fulmine sulla base della velocità. Va bene? Allora, il narratore, come Flaubert vuole essere, un narratore realista, non deve intervenire lui personalmente. Non può dire Achille è un fulmine. Deve dire Achille è come un fulmine. Se usa non comparazioni, similitudini, ma metafore, queste metafore devono essere assolutamente pregnanti, non stravaganti, altrimenti si sentirebbe la presenza del soggetto. Diciamo che, del soggetto che scrive, diciamo che è esattamente l'opposto di quello che fa un poeta, che normalmente un poeta, no, più usa una metafora stravagante che colpisce l'immaginario, più naturalmente viene ammirato, no? Ma lui non vuole essere poeta. Ecco il punto. Lui non vuole essere poeta, lui vuole essere un narratore che sta alle cose della realtà. Mi sta venendo in mente una canzone che forse qualcuno di voi conoscerà, di un cantautore tra i migliori dei vostri tempi, per cercare di accostarmi alla vostra sensibilità, che si chiama, non so se voi lo conoscete, dunque si chiama Antonello Venditti. Antonello Venditti, mi dispiace che non lo conosciate, perché è un po' di pregio, ha delle cose di pregio, ci sono delle facce che mostrano, lei non sa chi è Antonello Venditti. Lo sa, lo sa. Dunque c'è una canzone che mi rimette, lei lo sa chi è Antonello Venditti, che si intitola, voi non la conoscete comunque, che si intitola Notte prima degli esami. Lei la conosce? Non la conosce. bene. Dunque, nella canzone a un certo momento, che è una gran bella canzone, che naturalmente segue dei moduli poetici, no? Quindi metafore ardite, si dice a un certo momento, pensate un po' come siamo passati da Flobi Flobi ad Antonello Bellini, si dice le bombe delle sei non fanno male. Le bombe delle sei è chiaramente una metafora. Perché che cosa sono le bombe delle sei? Io posso intendere in due modi. Che sono le bombe che si grasse, spaventose, a guardarle i trigliceridi, solo a guardarle aumentano così. Capisci? Morte sicura per un diabete. Il fretto, il fegato, le transaminase salgono così. Puoi anche però intendere bombe, al di là del significato che noi romani ben conosciamo, perché se io vado in un negozio e mi dà una bomba, non si pensa che io chieda una bomba per far saltare, che so, Berlusconi, no? Beh, è una bomba, no? E il verso ci piace, è poetico, è una metafora. Ma noi sentiamo Venditti, noi avvertiamo Venditti. Ci piace perché avvertiamo l'autore. Flaubert non vuole far sentire la sua presenza, vuole che noi sentiamo la bellezza del racconto. Ecco perché comparazioni e non metafore, ma se le metafore vengono usate, devono essere non tipo le bombe delle sei non fanno male, ma devono essere assolutamente cristalline, lineari. Insomma, a chi è un fulmine? Già è troppo. È chiaro il concetto? Il giovanotto è un ragazzo di 18 anni. Anzitutto dice un jeune homme, a 18 anni uno non è un giovanotto, è una cacca. Siete felicemente cacchette. Felicemente perché in un tempo rapidissimo lo sarete. Questo è il punto del mio. In un punto terribile da cacchetta uno diventa merda. Pensateci un po', una cosa che dovreste scrivere. Capo a me. Vengono, mi entrano dall'alto queste ispirazioni. Cioè uno diventa restituita la sua nuda realtà in un tempo rapidissimo. Da cacchetta, dolce, avete capito, noi prendiamo questa cosa triviale, ma in Francia comunque, mi ricordo quando io ero in Francia, avevo 12-13 anni ed ero considerato un bambino, insomma, e quando c'era la camera per me, e mi ricordo che mio, rivolgendosi ai miei genitori, eravamo a Bordeaux, e il maître dell'albergo aveva detto pour le jeune homme, io naturalmente ero stato onoratissimo di essere chiamato jeune homme a 13 anni. Jeune homme è molto più consueto, però poteva anche dire un garçon. Perché ha detto jeune homme? Perché vuol far sentire già l'adultità, per così dire, in theory, no? Cioè è uno che sta diventando uomo, è uno che sta diventando uomo. E questo romanzo, ricordatevi, è il romanzo di uno che tenta di diventare uomo. Non è il romanzo di un uomo, tant'è vero che quando finisce è come se ci fosse una sorta di dissolvenza sulla fine. Lui ha 45 anni, quindi ormai è un adulto, ma direi l'ultima parte della sua vita conta solo come prosecuzione della vita precedente, di ragazzo che si è formato. Sono i famosi, ve l'ho già detto l'altra volta, romanzi di formazione, il Venus Romano, di cui per esempio uno dei più importanti è il Wilhelm Meister di Goethe, no? In cui si racconta la formazione di una persona. Il ragazzo sta con i lunghi capelli, perché i capelli non corti? Perché? Lo dice lei. Ragazzi, dovete avere... alzare le chiappe, essere svelti nel rispondere, capito? Zun, faccia così, zun, provi a rispondere. Perché non hai capelli? Ma è il microfono, certo, fuori dal microfono, perché non hai capelli corti? Certo, secondo me allora, Perché c'è tutto? Ricordatevi che la testa l'avete non solo per dividere gli orecchi, questa è la frase. Capito? Questa è un'altra frase. La testa l'avete non solo per dividere gli orecchi. Si sente artista, quindi ha i capelli lunghi, no? I capelli lunghi sono sempre, sempre. Cioè, e ha sotto il braccio un album. Un album perché? Perché? Perché? Cosa ci fa sull'album? Disegna. Quindi noi sappiamo per ora che lui vuol disegnare. Vuol disegnare? Non è così semplice. Però certamente si presenta come uno che vuole disegnare. E sta vicino al timone immobile. Immobile perché, vedete, è stranito. C'è questo viaggio che comincia. Non sa cosa fare di se stesso. Sta lì e guarda Parigi che se ne va. E gli edifici di Parigi, siccome Parigi non la conosce ancora, non ne conosce il nome. La cosa è struggente, perché a un certo momento tutto questo romanzo avverrà a Parigi. Si dice sempre che La Bovary è un romanzo di campagna, ma questo romanzo è un romanzo di città. Io ho scritto una cosa che mi pare, l'ho scritta molti anni fa, ma mi pare convincente. Più che un romanzo di città, questo, perché si svolge a Parigi, sapete che cos'è l'educazione sentimentale? Un romanzo di strade. Cioè lui cammina tanto, si sposta per inseguire Madame Arnoux a Parigi, per inseguirla fuori da Parigi, e poi va al suo paese. E alla fine uno ha la sensazione che la vita di una persona sia fatta di strade. Ci pensate? Voi venite qui all'università, fate una strada per venire qui, prendete il mezzo, il 20 Express, oppure venite in macchina. Fate il raccordo anulare. Pensate quanto vi è noto il pezzo di raccordo anulare che fate. E tornate poi a casa. Quanti chilometri abbiamo fatto nella nostra vita? Quanti chilometri abbiamo fatto? Da quanto tempo ho la patente? Quanto tempo ho la patente? Lo so. 115 anni. Quanti chilometri avrò fatto in 115 anni? Ho calcolato che adesso sto facendo sui 13.000 chilometri l'anno, misura molto modesta, c'è gente che fa 60.000 l'anno. Quante volte ho fatto il raccordo anulare? Quante volte ho visto la rustica boniana, il biglio della prenestina, la furtina affollata? Quante ore della mia vita ho dedicato alla Tiburtina? Quante volte sono passato davanti? Quante volte ho parcheggiato? Quante volte ho tirato il freno a mano? Che cazzo di vita è stata? Tutta una vita di freni a mano, di acceleratori, di una cosa spaventosa. Quante volte ho cambiato nella macchina? Quante volte ho fatto prima, seconda, terza, sesta? Quante volte? Quante volte ho cercato di fregare la polizia andando a 180? Quante volte ho fatto? Ecco che cos'è una vita. È un movimento. E questo viaggio e questo romanzo inizia con un movimento. Frédéric Moreau aveva avuto, mi ha raccontato, aveva avuto, era andato dallo zio per vedere se poteva avere questa eredità. Era la mamma, sono le mamme che si occupano di queste cose, naturalmente. E adesso si sta partendo. E guardate questo inizio alla fine del paragrafo, quando parla delle goccioline di rugiada, la vibrazione interiore del motore e le ruote che battevano. Mettete insieme queste cose, le goccioline di rugiada, la vibrazione del motore e le ruote che battevano. Sentite questo far passi della vita, goccioline di rugiada. Siamo mattina presto. Il motore, le ruote che battevano, la giornata comincia, il viaggio comincia. Da una parte e dall'altra ci sono le due rive di sabbia e lui vede le cose su queste rive. Guardate la secchezza di questa descrizione, implacabile, eppure la poesia che ne viene fuori. Ci sono zattere di legname, zattere. C'erano le zattere per portare il legname da una parte all'altra del fiume, zattere. C'è uno seduto che pesca. Ci sono delle nebbie che si sciolgono e appare il sole. Una riva si abbassa e un'altra si alza. Come vedete, non c'è un aggettivo di troppo in questa descrizione. Tutto è vita e realtà. Non c'è un'intromissione dell'autore. È come se fosse una fotografia. È come se fosse un filmetto girato, un filmetto imperturbabile. Le zattere, un tizio che pesca, siamo partiti, un tizio che pesca, poi le colline che si abbassano, perché naturalmente c'è il movimento del battello, cambia la luce in cielo. Vorrei fermarmi su questa piccola cosa bella, cambia la luce in cielo. Già, perché in un viaggio per mare, questa è una delle cose che colpisce e che ti affascina di più, che abbia avuto anche una piccola prova, che cambia la luce, no? Noi riteniamo che siano scontate queste cose, ma guardate, ieri per esempio era una giornata grigia, poi a un certo punto io al mare, prima era grigio, poi è diventato, c'era il sole, e ogni tanto uno si chiede, ma quante volte ancora nella mia vita vedrò le nuvole che si sciolgono e il sole che appare? E sono pensieri sulla propria non eternità che colpiscono. Che cos'è una vita? Una vita è un cambiare dei colori del cielo. Scrive. Una vita è uno sciogliersi delle nuvole, un cambiare dei colori nel cielo. Ci sono dei giardini. Questo fa pensare che siamo dove? In un paese povero? No. Nei paesi poveri non ci sono giardini. Da quello che noi vediamo dell'Afghanistan, dell'Iraq, quantomeno, che cosa vedete voi dell'Afghanistan e dell'Iraq nei reportage televisivi che ci sono? Vedete cosa è? Mura diroccate, è così? Strade senza segnali, sabbiose, deserto, rocce. Qui invece vediamo dei giardini e vediamo che i vasi dei gerani sono intervallati. Vediamo un po' se la sensibilità vostra comincia a venire fuori. Che cosa vi dice il fatto che ci sono dei vasi di gerani, se non sbaglio, dice qui? Che cosa vi dice? Che cos'è un gerani? Che tipo di fiore è? Ve lo dice lei? Un geranio. Vediamo un po' se è arrivato. La rinascita, non lo so, che sia. No, ma che il geranio dura poco o molto prima di tutto? Poco. Non mica tanto. Dura molto. Le rose durano poco, ma i gerani. Ma che cosa serve un geranio? No, ma che non è facile, quindi provate un po' ad arrivarci voi. Dove si trova il geranio? In genere nelle case, però non deve essere curato. Nel caso? Deve essere curato comunque, non ho capito. Deve essere curato come fiore. Deve essere curato, come tutti i fiori d'altra parte, deve essere curato, certamente. Ma il geranio è tipico degli arredamenti, è tipico delle case tranquille, borghesi, ben ordinate, questi vasi di gerani intervallati. Voi non le troverete in Afghanistan, alla periferia di Kabul, dei vasi che sono messi sulle terrazze ordinate, no? No, e questo è un modo per farci sentire che siamo in una civiltà linda e pulita. Questi vasi di gerani che sono intervallati. E ognuno di quelli che sono sulla barca pensano a come sarebbe bello. Sentite com'è banale questo pensiero e al tempo stesso com'è vero. Quando noi vediamo delle belle casette, magari al mare o in montagna, no? Mi sarà venuto, forse non a voi che siete ancora molto giovani, ma ai vostri genitori, mi piacerebbe tanto comprare una casetta in montagna. Probabilmente i vostri genitori avranno avuto pensieri del genere. Sapete che tutti i genitori del mondo desiderano comprare una casa fuori. Perché? Perché vogliono, lo fanno per i figli. È un investimento, ma lo fanno per i figli perché vorrebbero che i figli, che non devono mai staccarsi da papà e mamma, potessero vivere poi sempre in quella casa con loro, no? E poi naturalmente i figli si annoiano mortalmente dopo la primissima età di dover andare al mare sempre a Santa Marinella, e non si può fare diversamente, ogni festa vorrebbero andare a staccarsi loro e invece bisogna sentire i nonni, bisogna fare queste feste comuni, però tutti i genitori del mondo desiderano andare a Santa Marinella,